6. Ascolta e controlla. Luisa è una studentessa di lingue e durante il fine settimana lavora in un albergo. In albergo ha la possibilità di parlare in francese, tedesco e soprattutto inglese. Frequenta le lezioni dal lunedì al venerdì. Il pomeriggio Luisa passa molto tempo in biblioteca per studiare. Dopo incontra gli amici in pizzeria e parlano degli esami e dei professori. La sera Luisa torna a casa in autobus. Quando Luisa incontra la signora Willis in albergo, parla con lei in inglese. La signora Willis è in città per 3 giorni e ha bisogno di una mappa della città. Luisa è molto gentile con la signora. Simona e Fabio vanno al concerto e invitano Luisa. Domani Luisa ha un esame orale di letteratura francese e ha paura del professor Sassi. Il concerto non finisce tardi e allora Luisa va con loro. Alle 11 di sera i ragazzi sono a casa. Luisa va in biblioteca perché ha bisogno di una grammatica inglese per studiare. Il libro è in una scatola. Luisa non ha la tessera, ma ha la carta di identità e prende in prestito il libro per 20 giorni.